fantasia artificiale, una tautologia. Ogni concetto di paradiso è connesso logicamente a necessità umane, che sia mitologia o Maria. Non puoi distinguere un paradiso religioso da quello dell'alterazione della percezione. Entrambi hanno un lato pericoloso, in quanto derivano dalla sostituzione di un problema con una proiezione. Tutte le possibili obiezioni scientifiche specializzate sono collegate alle definizioni delle droghe basate sul concetto di sostanza. E anche se tu non definisci un dogma come una sostanza, ciò non toglie che esso abbia enormi ripercussioni sul mondo reale. Per capirlo basta un po' di lungimiranza. In sostanza, la natura dell'uomo è l'artificio. Cioè, non ho capito bene, parli di droghe, ma le hai provate? Dai, cazzo, stavo cercando di spiegare che se vuoi vietare le droghe devi vietare anche la religione. Sei proprio un idiota, la tua ignoranza è il motivo per cui molta gente vuole proibire la droga. Ma ho visto cose che voi tossici non potete neanche immaginare.